Focus Economia. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono le 17:08 minuti circa in questo istante, una puntata del tutto particolare di Focus Economia, perché andremo in onda in parte da Milano e in parte da Mosca, dove oggi è cominciata la missione di Confindustria. E poi ovviamente perché continueremo ad aggiornarvi sulla situazione in Abruzzo, regione sconvolta questa notte da un fortissimo terremoto. Proprio adesso le agenzie rilanciano, si tratta di almeno 100 vittime accertate, quindi abbiamo già superato l'ultimo numero che vi abbiamo dato nel corso del GR, 92 morti, adesso si tratta appunto di 100 vittime accertate e probabilmente ce ne saranno ancora di più. Continueremo nel corso di Focus Economia ad aggiornarvi, a darvi tutte le notizie, a dirvi anche che cosa succede sulle strade. Adesso però velocemente andiamo a vedere che cosa è successo, che cosa sta ancora succedendo sui mercati, perché questa mattina la giornata era cominciata positivamente con il segno più sui listini europei e poi a metà seduta cambio di rotta, segni negativi ovunque, l'apertura negativa di Wall Street non ha fatto che ulteriormente peggiorare la situazione e quindi Parigi in questo momento cede l'1,61%, Francoforte cede 1,5%, Londra cede 0,99%. A Milano che cosa succede? Il Mibtel è in flessione dell'1,40%, l'S&P MIB cede l'1,79%. Sui listini statunitensi, che oggi sono stati molto influenzati da una notizia data anche dal nostro GR IBM che abbandona le trattative per la Sun Microsystems, che cosa succede a Wall Street? Il Dow Jones cede l'1,49%, il Nasdaq cede il 2,29%, lo Standard & Poor's cede l'1,82%. Bisogna dire però che in Europa sotto pressione ci sono soprattutto i titoli finanziari e allora velocemente a Milano che cosa sta succedendo? In fondo al listino il titolo Ansaldo c'è del 6,75%, giù però anche UbiBanca meno 5,43%, Telecom Italia c'è del 5,11%, Intesa San Paolo il 4,27%, Generali c'è del 3,67, Alleanza il 3,60 e giù un po' tutti i titoli legati al mondo bancario, al mondo finanziario in generale. Il titolo migliore è Pirelli, che resta Pirelli, è stato il miglior titolo per quasi tutta la seduta, più 4,64%, Luxottica guadagna il 2,84%, Impregilo il 2,35%, Tenaris l'1,84%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3384 sul dollaro. Alcune notizie in breve della giornata di oggi. Cominciamo come al solito dal petrolio, che a New York apre in calo a $51,17 al barile, la flessione del 2,6%. Come ogni giorno vi diciamo anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda l'Euribor. Il tasso a tre mesi è calato all'1,47% dall'1,48% di venerdì scorso e come ogni giorno ormai c'è un nuovo minimo storico e anche oggi non fa eccezione. Tornano ad acuirsi i deflussi dai fondi aperti, questo è quanto comunica Assogestioni, precisando che nel corso del mese di marzo i deflussi dai fondi aperti ammontano a quota 5,1 miliardi di euro, il patrimonio subisce così una contrazione di 2 miliardi di euro, passando dai 388 miliardi dello scorso mese agli attuali 386 miliardi di euro. E ancora, per quanto riguarda l'economia, lo scorso febbraio il commercio al dettaglio nei 16 paesi di Eurolandia ha registrato un calo record del 4% rispetto allo stesso mese del 2008. Su base mensile la riduzione è stata dello 0,6%. Questo è quanto ha reso noto Eurostat. L'Istituto Statistico Europeo ha cominciato a registrare i dati sull'andamento del commercio al dettaglio dall'inizio del 2000 e questi, gli ultimi quindi, sono i risultati peggiori dati fino a questo momento. Per quanto riguarda altri dati, prosegue anche nel secondo mese del 2009 la contrazione dei consumi con una riduzione tendenziale del 4% in termini di quantità, dato non solo in linea con quanto registrato a gennaio, meno 4,3%, ma che porta anche a 12 i mesi consecutivi col segno meno, confermando quindi come la fase critica per i consumi non sia ancora esaurita. Questo è quanto emerge dall'analisi dell'indicatore dei consumi Confcommercio relativo a febbraio 2009. Le 17 e 14 minuti, lo dicevamo proprio in apertura di programma, è cominciata oggi da Mosca la visita in Russia della più grande missione italiana di sistema nel paese, organizzata da Confindustria, ICE e ABI. E inevitabilmente a tenere banco anche a Mosca le notizie che sono arrivate dall'Abruzzo, che ripetiamo colpito da un fortissimo terremoto. Sentiamo a questo proposito la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, alla quale Sebastiano Barisone ha chiesto poco fa se l'organizzazione degli imprenditori si sia già attivata a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma. Noi già da oggi abbiamo sensibilizzato tutte le nostre imprese e i lavoratori delle nostre imprese a donare, ovviamente volontariamente, chiunque farà quello che riterrà, per supportare le popolazioni che in questo momento stanno soffrendo moltissimo. Da parte nostra come imprese cercheremo di fare il possibile per essere proprio vicini alle famiglie in Abruzzo che stanno soffrendo. Anche per quanto riguarda la fornitura di farmaci e per le aziende che si occupano di costruzione, il nostro mondo si è messo a disposizione della Protezione Civile per aiutare e fare tutto quello che è necessario per soccorrere le popolazioni. Credo che questo tema del piano casa, che è un tema interessante per far ripartire l'economia, debba assolutamente tener conto anche di questo e debba quindi chiedere che le nuove costruzioni vengano fatte rispettando nuovi parametri, soprattutto nelle aree sismiche. Nel nostro paese purtroppo ce ne sono molte. Lei pensa anche delle agevolazioni fiscali più avanti per le imprese danneggiate, particolarmente danneggiate nel territorio? Sì, credo di sì, credo che ci sia un'emergenza molto forte, ci sono quasi tutte le aziende del settore hanno dovuto interrompere le produzioni perché questa è la situazione, quindi credo sia assolutamente importante avere molti strumenti a supporto da una parte delle popolazioni, dall'altra delle imprese, per cercare di ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile. E allora, come avete sentito, la missione italiana ha cominciato oggi il suo giro da Mosca e noi passiamo proprio la linea a Sebastiano Barisoni, che è in collegamento da Mosca. Buonasera Sebastiano. Sì, grazie Valeria. È iniziata oggi infatti la prima tappa della missione italiana in Russia, chiaramente missione che alla luce dei tragici eventi abruzzesi sta modificando sostanzialmente anche il suo profilo. Il Presidente del Consiglio Berlusconi infatti domani non sarà presente, salterà quindi anche l'incontro con Vladimir Putin. Sono invece presenti gli oltre 800 imprenditori, la più importante missione mai organizzata da Confindustria, ABI, ICE e governo in un paese estero, missione che tra l'altro si svilupperà con tappe diverse, perché oggi e domani è la volta di Mosca, ma poi la missione si sposterà chiaramente a San Pietroburgo, seconda città della Russia, molto importante come porto, come porta di accesso al paese, e poi Ekaterinburg, che è il cuore della siderurgia nell'area degli Urali. L'industria siderurgica e meccanica russa è quasi tutta localizzata lì. Da lì poi a Krasnodar, ossia nel sud verso il Caspio, regione in cui esiste tutta la produzione per quello che riguarda la parte agroalimentare russa, e ancora da lì a Novosibirsk, terza città russa con 1,5 milioni di abitanti, porta d'ingresso verso l'area siberiana. Prima di tutto però, visto che la Russia viene da un periodo difficile di calo delle esportazioni, calo delle importazioni, l'Italia resta il secondo partner russo. Questa scheda preparata dalla nostra Valentina Fulanetto. Del prezzo del petrolio e le difficoltà legate alla crisi finanziaria e al rifinanziamento dei debiti esteri sono gli scogli che deve affrontare l'economia russa nei prossimi mesi. La crisi infatti si sta facendo sentire. Il PIL del paese nei primi due mesi dell'anno è risultato in calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'export in particolare è sceso del 50%, mentre l'import ha subito un calo del 35%. Tutto questo dopo anni in cui il gigante russo aveva registrato registrato una crescita tra il 6 e l'8% e dopo un 2008 nel quale i salari reali erano cresciuti del 13%, mentre per quest'anno si prevede che l'aumento sia solo del 5 e 6%. Il tasso di disoccupazione quest'anno toccherà il 6,2%. L'Italia occupa il 19° posto fra gli investitori stranieri, per un ammontare pari a 486 milioni di dollari. Un dato, tra l'altro, sottostimato, poiché molti investimenti italiani in Russia sono effettuati tramite partecipate estere. L'Italia è presente nel settore energetico grazie agli investimenti di Eni e Enel, ma operano stabilmente in Russia anche circa 500 imprese italiane. In questi anni l'interscambio commerciale con l'Italia ha raggiunto circa 25 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto al 2006. Il nostro export vale circa 10 miliardi di euro, l'import 15. In particolare l'Italia si colloca al secondo posto per le importazioni, dopo la Germania, e all'ottavo per le esportazioni. Il Made in Italy in Russia riguarda soprattutto macchinari, prodotti tessili, abbigliamento e mobili. Il 71% delle nostre importazioni invece è rappresentato da prodotti energetici. Ed è il ruolo della missione italiana a Mosca e in Russia in generale. Abbiamo parlato anche con chi per il gruppo Banca Intesa gestisce tutta la parte corporate, ossia sopra i 150 milioni di euro di giro d'affari, e ha accompagnato parecchie aziende, imprese italiane a Mosca. Mi riferisco a Gaetano Micciche, appunto responsabile della divisione corporate Banca Intesa. Buonasera, dottor Micciche. Buongiorno. Lei ha in Banca Intesa, per dirla in maniera forse un po' semplicistica ma spero chiara, in mano tutta la clientela che ha un fatturato, diciamo, superiore ai 150 milioni di euro come indicazione di massima. Siamo in un paese che ha visto una contrazione del PIL intorno al 4% come stima finale del 2009, contro previsione iniziale di un più 3%, meno 20% nelle importazioni solo negli ultimi mesi del 2009, ma che vede l'Italia terzo paese per importanza commerciale, secondo in molti aspetti dopo la Germania, e la Russia comunque resta il secondo paese, o l'Italia resta il secondo mercato di sbocco per la Russia dopo l'Olanda, soprattutto per la parte che riguarda l'energia. Vi preoccupa il fatto di compiere una missione integrata con la Confindustria e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in un periodo di così grande sofferenza per l'economia russa? Allora, Intesa San Paolo è presente in Russia da circa 36 anni e quindi, diciamo, in questo ampio lasso di tempo abbiamo vissuto dall'interno momenti di crescita, momenti di arresto di questa crescita, di depressione, di sviluppo intenso come è stato quello negli ultimi anni. Quindi sotto questo punto di vista credo che siamo psicologicamente preparati a tutte le situazioni. Certamente negli ultimi 3-4 anni la Russia è cresciuta a numeri importanti, con un PIL che tendeva ad arrivare al 6-7% in crescita anno per anno, e in questi anni noi abbiamo sostenuto tutte le aziende italiane che si affacciavano per la prima volta in Russia con esportazioni e con anche volontà di effettuare insediamenti produttivi, quindi di realizzare all'interno di questo enorme e interessantissimo paese iniziative locali o dirette o in joint venture con operatori locali. Adesso, dalla seconda parte del 2008, la situazione si è radicalmente modificata. Gli ultimi dati danno una decrescita del PIL di quest'anno della Russia sempre crescente, cioè nel senso si parlava del 2%, adesso si dice il 5%, non si sa dove si arriverà. Certamente un momento difficile per la Russia, stamattina abbiamo incontrato anche dei colleghi locali che ce l'hanno confermato. Ma io credo che la distinzione produttiva e la distinzione dell'offerta delle aziende italiane in questo paese gli può paradossalmente in questo momento consentire di sfruttare nuove opportunità, perché l'assistenza che danno le aziende sia nel campo dei manufatti, dei semilavorati, che per quanto riguarda una serie di prodotti finiti comunque indispensabili per la crescita e lo sviluppo del paese, restano di grande importanza. A questo proposito, voi accompagnate già da tempo alcune imprese italiane, sempre per quello che riguarda la fascia di sua competenza che ricordavo prima, in Russia. Oggi è stato presentato il caso all'interno del workshop dedicato alle infrastrutture degli imprenditori Barbaro, che proprio qui in Russia hanno 10 navi, più forse altre 6-10 in arrivo, che svolgono compito di trasporto sul Volga e sul Don. Al di là del caso specifico, il ruolo di Banca Intesa in questi casi è, diciamo, chiaramente mantenere la linea di credito aperta e comunque accessibile per l'imprenditore, ma è anche supporto, consulenza, analisi strategica di mercato? Sì, il nostro modello organizzativo fa sì che noi seguiamo il cliente nelle varie sue categorie 365 giorni l'anno, con l'assistenza creditizia ordinaria tradizionale e poi con tutto ciò che invece può servire qualvolta il cliente abbia necessità di fare delle operazioni straordinarie, che possono essere un'esportazione, che può essere una delocalizzazione, che può essere un'acquisizione e quant'altro. Per quanto riguarda la Russia, prima di parlare di Barbaro, abbiamo seguito tante altre aziende come Marazzi, come Merloni, come la Safwood, che è un'azienda che recentemente ha creato, importante, che opera nel legno, che recentemente ha creato una joint venture qua. Abbiamo due banche in Russia, una banca che segue principalmente le piccole e medie imprese, che ha circa una novantina di sportelli in tutto il territorio e in tutto il territorio russo, e poi abbiamo una banca che segue principalmente il corporate. Questa banca, tra gli altri clienti, ha seguito anche il gruppo Barbaro. Barbaro è un cliente storico di Intesa San Paolo, che assistiamo in tutte le sue necessità. Uno dei clienti diciamo di cui siamo più orgogliosi, perché non è ovvio che delle aziende in settori così complicati e diciamo con tante presenze internazionali riescano a sfondare in un paese difficile come la Russia e riescano continuamente a crescere. Stamattina ho incontrato anche tutto il gruppo manageriale di Barbaro. Molti sono russi, altri sono italiani che lavorano qua, e mi sembra un eccellente gruppo professionale. Questo ci porta anche a toccare la vexata questo, perlomeno in questi mesi, del rapporto banche-imprese e soprattutto accessibilità del credito bancario per le imprese, mantenimento dei rubinetti aperti, come si dice in gergo, e non ultimo il rapporto Mediobanca, pubblicato ieri anche da Sole 24 Ore, in cui sembrerebbe non esserci un grande problema sul, perlomeno come numeri aggregati, nella concessione di credito alle imprese. Questo va un po' in controtendenza rispetto non solo all'idem sentire che raccogliamo tra gli imprenditori, ma anche a alcune, diciamo, dichiarazioni e prese di posizione a livello confindustriale, in cui si dice: attenzione, qualche problema, qualche rubinetto chiuso c'è. Intesa San Paolo ha approvato il bilancio del 2008 qualche settimana fa, e quindi i nostri numeri sono ben chiari e alla portata di tutti. Nel 2008 la banca, in tutte le fasce di clientela, è cresciuta a livello di impieghi in maniera significativa. Per quanto riguarda il corporate in particolare, siamo cresciuti a due cifre, quindi dando circa 12 miliardi di impieghi in più di quelli che avevamo dato nell'anno precedente. E anche in questi primi tre mesi del 2009 il trend è quello di continuare a fornire la necessaria assistenza a tutti i clienti. Come il mio amministratore delegato ha detto più volte, però dobbiamo fare buon credito. Quindi dobbiamo trovare volta per volta insieme ai clienti la formula tecnica, le scadenze, le tipologie di rientro tali che assicurino a loro, ai clienti, di avere il denaro necessario per realizzare i loro obiettivi imprenditoriali, e a noi ad essere il più probabilmente certi che questo denaro ci venga restituito. Visto che lei citava i conti di Intesa 2008, non vorrei tornarvi, però recentemente lei ha dichiarato anche la sua soddisfazione per i conti di Banca IMI, che è una cosa sicuramente più settoriale all'interno del gruppo. Perché tanta soddisfazione per Banca IMI? Perché guardava con la testa Wall Street e altre banche che magari finiscono con Brothers di cognome? No, Banca IMI è l'investment bank del gruppo, è un'azienda che ha realizzato quasi 1 miliardo di euro di ricavi nel 2008, con una crescita di tutti i margini, anche il risultato netto di circa il 40%, ma questo va nella filosofia del gruppo. Noi facciamo operazioni avendo ben al centro della nostra attenzione il cliente. La nostra forza sono 11 milioni di clienti che abbiamo in Italia e circa 8 milioni di clienti che abbiamo in giro per il mondo. Non cerchiamo operazioni spot, cerchiamo se possibile di trovare volta per volta le soluzioni adatte alle varie tipologie di clientela, e così si è mossa Banca IMI. Quindi Banca IMI non è una delle investment banking che negli ultimi tempi a livello internazionale si sono mosse con obiettivi spot di fare delle operazioni e poi tra virgolette abbandonare i clienti ai quali le proponevano, ma una filosofia operativa di continuità di relazione che la porta a crescere gradualmente, ma direi in maniera serena e con reciproca soddisfazione nostra e della nostra clientela. Quindi senza problemi metabolici, diciamo, nell'affrontare la crescita. Ancora due domande. La prima, visto che parlavamo di conti del gruppo Intesa, in generale i dati li abbiamo visti, li avete diffusi appunto da poco, c'è o si respira una leggerissima, non so quanto appropriata, euforia, anche se camuffata da cauto ottimismo in borsa, e soprattutto su quanto questo ciclo possa essere, o la fine di questo ciclo possa essere anticipata. I corsi azionari hanno recuperato, questo è innegabile, non hanno recuperato nemmeno lontanamente quanto hanno perso nel 2008-2009, ma un recupero c'è stato. Lei è come? Cautamente ottimista, prudente, ancora su chi va là? Fare le previsioni sui mercati credo che sia una delle circostanze, delle situazioni più difficili nelle quali ci si possa trovare, soprattutto con una situazione come quella degli ultimi anni di vera globalizzazione finanziaria, per cui molti dei mercati sono anche influenzati da quello che accade nei mercati asiatici o nei mercati americani. Io credo che il miglioramento del trend, ecco, chiamiamolo così, sia dovuta proprio all'approvazione dei bilanci 2008 e quindi alla convinzione che ci si è fatti che tutte le cosiddette pulizie di bilancio, tutte le preoccupazioni che molti analisti avevano per società, per possibili write-off o per possibili accantonamenti che dovessero essere effettuati, adesso sono venuti fuori, e quindi si ritiene che quei bilanci diciamo avvalorino situazioni aziendali che non potranno solamente che migliorare. Quindi lei, dottor Micichè, è abbastanza d'accordo col governatore Draghi quando dice il rallentamento del deterioramento, che sembra quasi un gioco di parole. Ultima domanda, per visto che lei citava il caso dell'investment banking, esiste anche il merchant bankers, se così possiamo dire, e mi riferisco al suo ruolo di grande tessitore nella vicenda all'Italia. Voi siete stati la banca di riferimento su questo, lei nel caso specifico può essere la parte più operativa, chiaramente coadiuvato da tutto il gruppo nello scegliere cordata e anche individuare i paletti dell'operazione. A distanza di un tempo in cui sicuramente è ancora difficile fare bilanci, ma il suo giudizio qual è? Allora, il caso Alitalia in effetti rappresenta uno di quei casi dove il lavoro di squadra per quanto riguarda Intesa San Paolo è stato totale, quindi non c'è una parte della banca che ha fatto di più di un'altra, ma effettivamente c'è stata una componente allargata di professionalità all'interno della banca. Io sono soddisfatto perché il 13 gennaio non è nata una nuova società, si è fatto contemporaneamente uno startup, un turnaround, perché bene o male si veniva da una profonda crisi all'Italia, e un merger fra due società che erano Alitalia e Ruan. Io questi lavori li ho fatti nella mia vita, non così complessi direttamente, e so che ci sono delle componenti difficilissime da realizzare, non solo materiali ma anche psicologiche, quando operatori per esempio di Alitalia devono improvvisamente convivere con operatori come quelli di Air One, con i quali fino al giorno prima si era agguerriti concorrenti. E si è dovuto realizzare un nuovo network, si è dovuto rivedere una serie di meccanismi operativi, sono arrivati nuovi aerei, e tutto ciò è avvenuto in un periodo storico, economicamente tra i più difficili degli ultimi 70 anni, come tutti diciamo, in un periodo stagionale come gennaio, che quindi è il periodo della neve, del freddo, delle incertezze anche aeroportuali. Io credo che le cose stanno andando bene, sono fiduciosissimo nel management di Alitalia, e devo dire da passeggero riesco a viaggiare con un buon servizio e con una buona puntualità. Bene, io nel ringraziarla, dottor Micichè, le dico, quindi insomma, lei ci garantisce che il vostro credito verso l'impresa aumenterà ancora di più? Sì, questa è una garanzia che posso assolutamente sentire di fare, verso le imprese che lo meritano, verso le imprese che dialogano di più con la banca, perché una cosa che io dico quando incontro gli imprenditori: dobbiamo tutti e due, non solamente gli imprenditori, anche noi banche, abituarci a parlare di più, a cercare di anticipare i temi, cercare di non arrivare troppo tardi noi con i nostri interventi o troppo tardi le aziende con le loro richieste. Se si svilupperà un clima di maggiore fiducia fra le imprese e la banca e non di contrapposizione, secondo me ce ne saranno benefici per tutte e due le categorie. Bene, in bocca al lupo anche lei, quindi, come facciamo a tutti i nostri intervistati qui dalla Russia. Grazie a Gaetano Micichè, responsabile della divisione Corporate Investment Banking di Intesa San Paolo. Grazie a lei. Qui da Mosca è tutto, la linea torna a Milano e a Valeria De Rosa per gli aggiornamenti dei mercati, ma anche e soprattutto chiaramente per gli aggiornamenti purtroppo dall'Abruzzo. Sono le 17:43 minuti, ben ritrovati in diretta con Focus Economia. E allora torniamo ad occuparci delle conseguenze del terremoto che questa notte ha sconvolto l'Abruzzo. Poco fa abbiamo raggiunto Giuseppe D'Amico, che è il direttore generale di Confindustria Abruzzo, che raggruppa oltre 2000 imprese della regione. Ad D'Amico abbiamo chiesto quali siano i danni per aziende e tessuto produttivo che stanno emergendo dalle prime rilevazioni. Le condizioni sono state impossibili, perché siamo ancora proprio nel pieno del dramma. Sicuramente ci sono stati dei danni, sicuramente, perché ho avuto notizia di un'azienda del tetto, di un'azienda che è all'altro lato della città rispetto all'epicentro, che è crollato il tetto del capannone, si è piegato, per cui presumo, ma è solo una presunzione, spero che sia sbagliata, che tutte le aziende che sono nel nucleo industriale di Bazzano, noi chiamiamo così nucleo industriale Bazzano, Onna, che è esattamente all'epicentro del terremoto, quindi la zona di Paganica, Onna, quei paesi che adesso diventeranno tristemente famosi, il nucleo industriale Bazzano si trova proprio lì. Quindi presumo che le imprese hanno avuto dei danni. Senta, per quanto riguarda la giornata di oggi, immagino che per molte di queste aziende il lavoro si sia fermato. Sì, no, penso assolutamente sì, perché credo che oggi tutti i cittadini qui o le persone o sono, come dire, al riparo da qualche parte, o magari stanno aiutando, insomma, a rimettere insieme i cocci, a estrarre i feriti, insomma, e credo che sia assolutamente tutto fermo. Cioè, stanotte è successo finimondo qui è crollato tutto, per caso, quindi non credo che ci vorrà un bel po' prima che di rientrare in un regime che assomigli all'ordinario. Credo che ci vorrà un po'. Senta, dottor D'Amico, avete già pensato a qualche richiesta specifica dopo ovviamente la dichiarazione dello stato d'emergenza? Ma guardi, io posso fare tutti i giorni che sono al telefono con il mio presidente, con Confindustria Nazionale, con altri interlocutori. Adesso il problema è veramente l'emergenza e il soccorso, perché questa è la cosa a cui bisogna pensare, sono le persone che stanno ancora sotto le macerie, insomma, bisogna pensare alle cose o chi ha perduto completamente la casa, insomma. bisogna pensare all'emergenza, al soccorso. Poi chiaramente verrà il momento della ricostruzione e ci sarà bisogno di un aiuto forte, questo è sicuro. Aiuto forte, noi come Confindustria anche adesso, fin da adesso, proprio appunto stavo dicendo che si è messa una macchina, un po' una moto, la macchina della solidarietà, poi tutto sommato non è questione di Confindustria, i costruttori anche delle altre province abruzzesi si stanno mobilitando per vedere se ce la possono mandare manodopera e mezzi di soccorso, no, mezzi soccorso, mezzi di movimento terra in sostanza, perché sono i datori di macerie. So che le industrie farmaceutiche hanno già contattato con Confindustria e le nazionali per mandare farmaci e quant'altro, insomma, quindi adesso il problema è questo, affrontare solo l'emergenza, dopodiché si penserà alla ricostruzione e chiaramente ci sarà bisogno di aiutare tutto quello che è possibile aiutare per far risollevare questa città. Il dottor D'Amico faceva riferimento all'Aquila come città, ma dobbiamo dire che si susseguono le notizie che arrivano dall'Abruzzo. Ci sarebbero alcune tensioni ad Onna, una piccola frazione vicino all'Aquila completamente distrutta. Si cerca di capire quando arriveranno qui proprio i primi soccorsi. Ancora altri comuni che chiedono le tende per la notte. Ci sono ovviamente moltissimi sfollati che non possono rientrare nelle proprie case. Le 17:48 minuti, sempre in compagnia di Focus Economia. Io vi ricordo che è sempre attivo il nostro numero verde 800 24 00 24, e il numero a cui potete inviare i vostri sms 349 238 6666. Nel frattempo si sta mettendo in moto tutta la macchina dei soccorsi e non solo, si sta attivando anche il telefono azzurro per intervenire a fianco della Protezione Civile per i bambini. E poi abbiamo già detto nel corso dell'aggiornamento del GR, la Croce Rossa Italiana invita tutta l'Italia a in qualche modo sostenere in questo particolare momento la regione Abruzzo e tutta la sua popolazione. Si può donare anche attraverso il sito della Croce Rossa Italiana. E poi continueremo ovviamente a darvi tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie che arrivano dalla regione. Adesso però è il momento di vedere che cosa è successo oggi in borsa, la prima seduta della settimana, una seduta che si chiude con il segno meno, anche se invece era cominciata con il segno più. Io saluto la collega di Radiocor, Flavia Carletti. Buon pomeriggio, Flavia. Buonasera a tutti. Flavia, la prima domanda che volevo fare con te è che forse siamo proprio entrati nella settimana di Pasqua e sta prevalendo un po' la prudenza rispetto ai rialzi delle scorse settimane. Sì, probabilmente c'è qualcuno che oggi ha preferito trarre beneficio dopo i recenti rialzi, soprattutto alla luce del fatto che Wall Street venerdì è riuscita comunque a chiudere in leggero rialzo quando tutti si aspettavano che già potesse essere una giornata negativa. Quindi l'influenza positiva di Wall Street si era ancora risentita questa mattina su Tokyo e poi nella mattinata sulle borse italiane. Poi nel momento in cui si è capito che Wall Street invece oggi avrebbe aperto con il segno meno, tutti i mercati europei hanno invertito la rotta per poi chiudere sulla scia dell'andamento oltreoceano. E allora vediamo un po' di ricapitolare le chiusure. Parigi meno 0,98%, Francoforte meno 0,80%, Londra meno 0,90%, a Milano il MIB ha chiuso in flessione dello 0,99%, l'S&P MIB dell'1,24%, in questo momento il Dow Jones c'è dell'1,60%, il Nasdaq il 2,23%, lo Standard & Poor's poco meno di 2 punti percentuali. Flavia, andiamo sul listino principale, cominciamo da Telecom Italia che è stato uno dei peggiori alla fine della seduta, il calo è stato del 4,01. Sì, esattamente, Telecom era già partita in mattinata con il segno meno, sembrava reggere, invece poi nel momento in cui è peggiorato il mercato comunque ha visto accentuarsi le vendite e quindi appunto come dici tu ha chiuso con il 4,01%. La motivazione che hanno dato nelle sale operative è che Telecom oggi ha risentito di quanto è stato deciso dall'antitrust argentina, che ha di fatto congelato i poteri di voto dei rappresentanti di Telecom in Telecom Argentina, e questa decisione è stata motivata dicendo che Telefonica attraverso Telecom e poi attraverso la sua presenza diretta con Telefonica Argentina praticamente crea dei problemi di antitrust sul mercato del paese. E quindi l'autorità argentina, per ovviare a questo problema, ha deciso di congelare i voti di Telecom Italia quando i vertici di Telecom Italia hanno subito detto che questa decisione è contestata, cercheranno di fare naturalmente un ricorso, perché diciamo le due società, in qualche modo, anche se Telefonica è presente in Telecom Italia, comunque rappresentanti in teoria dovrebbero comunque gestire due società diverse, e naturalmente Bernabé subito è intervenuto e ha anche detto che insomma si aspetta a quel punto un intervento del governo, perché se l'antitrust ha preso queste decisioni comunque rischia di pregiudicare quelli che sono non solo gli investimenti di Telecom Italia, sì, in Argentina, ma quelli internazionali, quindi si aspettano un intervento del governo, però nel frattempo il mercato ha penalizzato la società. Da tutt'altra parte, quindi, invece in testa tra i titoli, il titolo migliore è stato Pirelli, più 4,64%. Pirelli ha continuato a consolidare il rally che ha iniziato con la fine del mese di marzo. Dal 31 marzo fino a questa mattina il titolo aveva guadagnato il 26%, e quindi quello di oggi è stato semplicemente considerato un proseguimento di questo rally, che è stato poi galvanizzato anche dai dati della scorsa settimana sul settore auto italiano, che hanno dato i primi segnali di ripresa, anche se poi oggi il settore auto un po' ha pagato in tutta Europa. Infatti poi sulla fine della seduta ci sono state delle forti vendite, tanto che tutto il settore è andato in rosso. Pirelli invece ha continuato, alcuni anche probabilmente per motivi tecnici suoi, era sceso molto, quindi ha semplicemente ritrovato delle soglie che comunque continuano a sostenerlo. Visto che lo hai citato, il settore auto, rispondiamo a chi ci scrive che cosa ha fatto Fiat, chiude la seduta in rosso con un calo dell'1,75%. Noi invece parliamo dei bancari. Oggi il settore è un po' sotto pressione ovunque, a Piazza Affari si sono salvati Monte dei Paschi e Unicredit. Esattamente, sono salvati proprio sul finale, perché quando si stava avvicinando la chiusura sembrava che anche loro dovessero chiudere negativo come tutti gli altri, poi proprio sulla fine hanno trovato un po' di sostegno. Unicredit, secondo alcuni, grazie a un upgrade di Intermonte che era arrivato questa mattina, che l'aveva fatto proprio nelle prime battute volare, tanto che Unicredit questa mattina saliva di oltre il 6%, poi però sempre anche in questo caso sono arrivate delle notizie negative da oltreoceano, e quindi tutto il settore è andato giù, e solo magari piccoli aggiustamenti societari hanno permesso a MPS e Unicredit di restare in positivo, però per esempio Bibanca è stato il peggiore dei bancari, ha perso il 5,8%, Mediobanca ha perso il 3%, Intesa San Paolo ha perso il 2,3%, il Banco Popolare ha perso il 2%, e due le motivazioni principali: un po' l'andamento del settore americano, che è stato downgradato da un oltreoceano, da un analista che viene considerato molto influente nelle sale operative, e in più poi c'è stata una intervista al finanziere George Soros, sì, il quale ha detto che praticamente il sistema bancario statunitense è fondamentalmente insolvente, e in più ha detto che la ricapitalizzazione che è stata fatta non è stata fatta nella maniera più corretta, e che anzi le autorità non stanno operando nel modo giusto perché le banche tornino a dare credito, considerando comunque l'influenza che ha Soros, esatto, sul mercato. Questo stavo pensando anch'io, anche questa volta le parole di Soros hanno sortito il loro effetto. Parliamo di un altro titolo che oggi chiude la seduta in rosso, STM, che cede quasi 2 punti percentuali. Ancora una volta dobbiamo tornare a parlare degli Stati Uniti, perché anche per STM si tratta di un'influenza arrivata dall'estero, perché le cause dell'andamento negativo di Wall Street sono, da una parte, si realizzi, ma anche appunto per i bancari le parole di Soros, mentre invece per i tecnologici, che infatti stanno trascinando al ribasso il Nasdaq, è le indiscrezioni stampa riportate sia da Wall Street Journal che dal New York Times, secondo le quali l'accordo tra IBM e Sun Microsystems sarebbe saltato. In pratica il CDA di Sun Microsystems avrebbe rifiutato un'offerta da 7 miliardi di dollari che era stata avanzata da IBM, e a quel punto IBM avrebbe deciso di ritirare del tutto le sue proposte di acquisto. Questo è bastato per innescare le vendite su tutto il settore, tanto che la società che era oggetto di un'offerta scendeva del 23%, ma anche IBM, comunque, che in teoria non doveva più sborsare 7 miliardi di dollari, comunque è stata penalizzata dal mercato, tanto appunto, che scende circa il 2%. L'ultimo titolo che analizziamo è Ansaldo, meno 7,08% la performance di oggi. Beh, Ansaldo è stato fin dalle prime battute il peggiore dell'S&P MIB, ha perso molto, tanto accentuando ancora di più le perdite sul finale, però secondo, diciamo, gli operatori non c'è un motivo particolare, semplicemente ci sono, diciamo, dei movimenti di riposizionamento sul titolo. C'è da ricordare che è uno di quelli che comunque era andato meglio dall'inizio dell'anno, tanto che comunque dai primi di gennaio vantava una performance di rialzo del 20%, quindi in una giornata in cui a un certo punto sono emerse le prese di beneficio piuttosto che gli acquisti, è stato il più penalizzato. Grazie a Flavia Carletti, la collega di Radiocor, per essere stata con noi e per averci illustrato la giornata di borsa. Io vi ricordo le chiusure di oggi dei listini europei: Parigi ha ceduto poco meno di un punto, Francoforte lo 0,80%, Londra lo 0,90%, a Milano il MIB dell'inflessione dello 0,99%, l'S&P MIB dell'1,24%, calato anche l'euro su dollaro, 1,3366 il cambio in questo momento. Termina qui per oggi questa puntata di Focus Economia. Io ringrazio in regia Fabio Cantadori, in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno. Adesso tutti gli aggiornamenti dal nostro GR. Focus Economia torna domani alle 17:00.